2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 24 ottobre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Come sempre vi ricordiamo che esiste un servizio podcast per riascoltare la nostra puntata quando preferite. Tutte le informazioni sono online. Il servizio podcast vi dà la possibilità di scaricare automaticamente settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Oggi parleremo, nella seconda parte della nostra puntata, parleremo sia di Linux, perché oggi è il Linux Day, ma anche, naturalmente, come del resto annunciato la scorsa settimana, di Windows 7, visto che questa settimana è uscito il nuovo sistema operativo della Microsoft, che, pensate, ha nel mondo 1 miliardo di utenti, quindi un evento sicuramente globale che interessa un sesto della popolazione in tutto il mondo. Questa settimana una delle notizie più importanti riguarda il mondo della telefonia mobile, uno dei mercati dove più forte è la competizione e dove un po' tutti i grandi produttori di tecnologia, sia che facciano hardware sia che facciano software, stanno guardando con estremo interesse. Nokia in settimana ha fatto causa alla Apple, accusata di aver violato nell'iPhone 10 brevetti relativi alle tecnologie GSM, UMTS e Wi-Fi, quindi praticamente tutte le tecnologie usate dallo smartphone per connettersi alla rete cellulare e ad internet. Nokia ricorda in un comunicato stampa, per il momento nessuno è disponibile a parlare alla stampa dal colosso finlandese, c'è un comunicato sul sito internet che tutti possono leggere. Dicevo, Nokia ricorda di avere già firmato accordi d'uso per questi brevetti con almeno 40 società, ma dalla lista manca la Apple. La società finlandese ricorda di aver investito 40 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo negli ultimi 20 anni, contribuendo a creare alcuni standard di mercato, e che normalmente chi usa queste tecnologie dovrebbe pagare chi le ha brevettate. Apple, scrive e dice il responsabile per gli affari legali di Nokia, tenta di sfruttare gratis l'innovazione fatta e prodotta da Nokia. Secondo gli esperti, secondo alcuni analisti, oggi è pressoché impossibile produrre un telefonino senza utilizzare le tecnologie di Nokia, e per questo Apple rischia di pagare fino a 1 miliardo di dollari. Dalla Apple arrivano invece notizie relative a nuovi prodotti che sono stati introdotti questa settimana. La nuova serie di iMac, i desktop all-in-one della mela, cioè computer che dietro allo schermo nascondono il computer vero e proprio, quindi per questo vengono chiamati all-in-one, e anche il primo mouse multitouch sul mercato. Si chiama Magic Mouse e riproduce sul mouse le stesse capacità di controllo introdotte sull'iPhone, come ad esempio la possibilità di fare zoom con il movimento di due dita che si allargano o si restringono. Comunque sul sito della Apple c'è un video che spiega molto bene come funziona, quindi se non avete visto nulla, nemmeno una fotografia, è sicuramente utile e consigliata la visione di questo video, perché appunto è il primo mouse di questo tipo. Da lunedì scorso, come sapete, è in vendita in tutto il mondo il lettore di ebook di Amazon, il Kindle. Ne abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane. Questo rilancio di Amazon in tutto il mondo ha creato parecchio fermento nel mercato dei libri digitali, e questa settimana Barnes & Noble, una delle più diffuse catene di librerie americane, ha lanciato il proprio lettore. Oramai esistono tanti tipi di lettori, si chiama Nook, questo di Barnes & Noble, costa $259 e per ora è venduto solo negli Stati Uniti. Un'altra notizia molto importante della settimana arriva dalla Francia: il Consiglio Costituzionale francese ha dato il via libera alla cosiddetta dottrina Sarkozy in fatto di scambio illegale di file protetti dal diritto d'autore su internet. Di fatto viene giudicata non anticostituzionale, come molti avrebbero voluto in Francia, il provvedimento che prevede la disconnessione da internet per quegli utenti che verranno pizzicati a scambiare musica, film, programmi, videogiochi, insomma tutti i contenuti scambiati sui sistemi peer-to-peer in modo illegale. La disconnessione avrà effetto dopo 3 avvisi inviati da un'apposita agenzia che verrà creata nelle prossime settimane. I primi provvedimenti dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2010. Come sapete, come abbiamo detto più volte, 2024 c'è un dibattito piuttosto acceso in tutta Europa, soprattutto in Francia, per via di questa legge, di questi provvedimenti, ma anche in Gran Bretagna. In modo particolare in Gran Bretagna c'è stata più volte una dura e forte presa di posizione degli internet service provider, che dicono che un'operazione del genere avrebbe un costo troppo elevato o comunque sproporzionato con gli effetti positivi che avrebbe sull'intera popolazione di internet. Vedremo poi come si estenderà e se si estenderà il dibattito in Europa. Di questo si discute anche al Parlamento europeo, dove è in fase di discussione molto accesa, dipende anche dalle settimane, il famoso Telecom Pack, quindi il pacchetto relativo al mondo delle telecomunicazioni europee. Anche questa settimana abbiamo le immancabili, potremmo dire, notizie che arrivano dal mondo dei motori di ricerca. Bing, che è il nuovo motore di ricerca di Microsoft e Google, hanno annunciato accordi con Twitter per inserire nelle ricerche dei propri motori anche i messaggi pubblicati sul sito di microblog. Bing ha annunciato anche un accordo con Facebook. Di motore di ricerca, vi ricordo, si parlerà giovedì prossimo al Festival della Scienza di Genova e oggi noi ne parliamo con Nereo Sciutto, che è sicuramente uno dei massimi esperti in fatto di motori di ricerca in Italia e presidente di Web Ranking. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024. Grazie. Voi vi occupate a Web Ranking di ottimizzazione per siti internet nei confronti di motori di ricerca. Detto meglio rispetto a quanto ho detto io, di che cosa vi occupate? Interessante. Cerchiamo di far sì che tutte le cose che le aziende, i privati nei propri blog, le persone, anche il mondo della politica, qualsiasi informazione o cosa che qualcuno voglia pubblicare in rete, entri facilmente dentro gli archivi dei principali motori di ricerca e possa essere quindi trovata facilmente. In pratica ci sono tantissime persone o aziende che parlano del medesimo argomento e il motore di ricerca della situazione ci fornisce un elenco, un ranking, una classifica, mettendo nelle prime posizioni, quindi di fronte al naso del nostro utente, il nostro navigatore, e quelli che secondo lui sono i siti più coerenti con la ricerca che ho fatto, più la risposta migliore che lui può fornire. Il nostro lavoro è anche quello di scrivere o modificare o adattare i contenuti dei siti al fatto che il motore di ricerca riesca a capirli meglio e quindi a posizionarli più in alto. Una cosa interessante che tu hai detto è che quando si pensa ad un sito internet bisognerebbe cominciare a pensarlo già in funzione del motore di ricerca, che sembra quasi paradossale. Sì, è una cosa che quasi nessuno, alla quale quasi nessuno pensa. Il motore di ricerca è diventato oggi un forte mediatore, una componente essenziale della navigazione di ognuno di noi. Se ci pensate, navigando alla sera a casa o anche per lavoro durante l'ora d'ufficio, il motore di ricerca è diventato un compagno di navigazione insostituibile, è l'unico veicolo, una necessità per riuscire a rintracciare nuovi siti oppure per avere delle risposte alle proprie domande. Fondamentalmente abbiamo dei bisogni informativi o dobbiamo pianificare le vacanze o ci serve sapere, si usa in maniera veramente molto strana, anche solo come si dice una certa parola in inglese, chiediamo sempre a Google. Quindi fondamentalmente il motore di ricerca è diventato molto prezioso. Da questo punto di vista non possiamo più farne a meno, quindi siamo relativamente costretti ad adattare i nostri contenuti quando pensiamo di posizionarli online in maniera che il motore di ricerca riesca a rintracciarli. Prima si modificavano i siti per renderli compatibili alle logiche dei motori, oggi conviene in fase di progettazione pensare il sito perché sia una buona comunicazione verso il proprio cliente o interlocutore, ma anche una buona comunicazione nei confronti del motore, che poi sarà il primo veicolo di traffico. In pratica, se posso usare una metafora, Per preparare un sito senza pensare ai motori di ricerca è come parlare in mezzo a un deserto, nel senso, io posso parlare, posso provare a mettere online il mio messaggio, ma primariamente non è tanto importante paradossalmente la qualità del messaggio, ma è importante la qualità di chi effettivamente me lo ascolta. Certo, quindi è importante più che quello che si scrive, chi riesce ad intercettare il mio messaggio o quanto io sia bravo a far sì che il motore di ricerca ascolti la mia voce. Sì, che poi si tramuta in gli utenti, le persone che effettivamente ascoltano la voce. Penso dal punto di vista del politico, della comunicazione politica, è molto importante molto che importante. Il messaggio arrivi nelle teste delle persone. Senti, tu hai citato Google, abbiamo parlato di motori di ricerca e spesso quando si parla di motori di ricerca si fa riferimento a Google. È l'unico motore di ricerca o esistono dei concorrenti veri e propri? Il mercato dei motori di ricerca è molto, molto strano, è estremamente interessante per i volumi che muove, nel senso che, come dicevamo anche prima, è diventato insostituibile, quindi è un mercato dove un sacco di aziende vorrebbero operare. Il problema è che è un mercato difficile. In passato c'erano moltissimi motori, verso la metà degli anni 90, agli albori di internet, dell'internet di massa, fondamentalmente almeno negli Stati Uniti, sono nati moltissimi motori di ricerca. Quello che molti utenti non sanno è che Google è nato in un garage da due studenti universitari solo nel 98 ed è cominciato ad arrivare nelle case delle persone, o almeno negli uffici di chi lavorava su internet all'epoca, mettiamo caso in Italia, tra il 2001 e il 2002, quindi è un motore di ricerca abbastanza molto giovane. Sì, direi che probabilmente è uno degli ultimi. Ed è quello che nell'arco di una decina d'anni ha aperto il mercato e ha quasi praticamente portato al fallimento tutti gli altri motori storici che c'erano prima di lui. Oggi i motori che a livello planetario hanno i market share più ampi, comunque quelli più utilizzati dalle persone nella pratica, sono Google, il nuovo Bing, che è il motore di Microsoft, che poi ha fatto l'accordo con Yahoo, e quindi fondamentalmente possiamo immaginare che i top player siano due. Sì. Se escludiamo poi i motori specifici di alcune nazioni come Yandex in Russia o Baidu in Cina, che sono proprio più delle eccezioni che dei dati di fatto. Certo, anche se un'eccezione in Cina può essere un'eccezione interessante. Sì, decisamente. giusto per capire, che quota di mercato ha Google? Allora, in questi casi si ragiona in termini di solito di percentuale delle ricerche che intercetta Google rispetto a tutti gli altri motori di ricerca, quindi una market share, una quota di mercato basata su quanto le persone effettivamente lo usano. E negli Stati Uniti è una paradossalmente delle più basse al mondo, Google si posiziona tra il 67 e il 70% a seconda del mese di riferimento, che comunque è decisamente alta. In paesi europei in lingua diversa dall'inglese, ad esempio nell'Italia, Google ha una percentuale che rasenta o supera il 90%, nel senso che grazie a dei buoni accordi editoriali, voi non lo sapete, ma utilizzando utilizzate Google anche se state facendo delle ricerche all'interno di altri portali che hanno un'immagine, un logo diverso, ma la tecnologia attraverso la quale forniscono i risultati è sempre quella di Google. Ad esempio il famoso Virgilio non esiste più come motore di ricerca autonomo, o comunque è una maschera che poi utilizza Google. Sì, per quel tipo di ricerca sì. Abbiamo detto poco o nulla del funzionamento dei motori di ricerca. Alcuni sanno come funziona il motore di ricerca, sanno che esistono i cosiddetti spider, questi software che girano la rete internet alla ricerca di pagine web e poi le mettono tutte in fila all'interno della cosiddetta indicizzazione dei motori di ricerca. Ma ne riparliamo tra poco. Siete all'ascolto di 2024, siete su Radio 24. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, molto semplice, 2024, quindi 2024 @radio24.it. Vi ricordo che nella seconda parte di 2024 parleremo di Windows 7, del nuovo sistema operativo della Microsoft lanciato da qualche giorno, il 22 di ottobre, in tutto il mondo. un evento globale importante, se non altro per il numero di utenti coinvolti, visto che parliamo di circa 1 miliardo di persone che utilizzano un sistema operativo Windows, magari anche un vecchio sistema operativo Windows, ma sempre parte di questa famiglia che è arrivata alla versione numero 7. Più tardi ne parleremo, adesso invece ci stiamo occupando di motori di ricerca. Come dicevo, ci sono sempre notizie relative a questo mondo dove si investono molti soldi e un servizio del quale non possiamo più fare a meno quando navighiamo in rete. Ne stiamo parlando con Nereo Sciutto, che è presidente di WebRanking, una società che si occupa di motori di ricerca e accompagna le altre aziende che vogliono avere una presenza su internet. E oramai essere presenti su internet è importante, ma come dicevamo non basta essere su internet, bisogna anche essere ritrovabili dai motori di ricerca. Non abbiamo detto quasi nulla, Nereo, sul funzionamento dei motori di ricerca. Magari è utile dire qualche cosa, e soprattutto volevo capire se c'è stata qualche evoluzione, se i motori di ricerca oggi riescono a capire anche i video o le immagini, i suoni, visto che si dice spesso che il mondo web diventerà sempre più visual, come dicono gli americani, sempre più pieno di video. Cosa riescono a fare i motori di ricerca? Partiamo dall'inizio, che come funziona un motore di ricerca. Il motore manda un piccolo software, un programma che viene chiamato letteralmente spider, quindi ragno. Manda questi programmi a navigare tutti i siti e a cercare di capire che cosa c'è scritto dentro. E una volta rinvenuto il contenuto, questi spider vengono mandati, navigano il sito, estraggono le cosiddette parole chiave, cercano di capire per quali ricerche queste pagine possono essere rilevanti, riportano indietro nei database di Google queste informazioni e creano un lungo indice, un enorme database indice, che è poi quello che noi interroghiamo quando facciamo le ricerche all'interno del motore. Noi chiediamo questo indice, che poi viene gestito da tanti software che riescono a capire fra 8-9 siti che parlano dello stesso argomento qual è quello da mettere in prima posizione e così via. Mentre questa operazione è molto facile con il testo, perché ci sono delle regole abbastanza semplici di semantica del testo, quindi da un intero testo scritto non solo Google ma tanti altri operatori riescono a sapere quali sono i temi trattati, questa cosa diventa molto difficile con i contenuti multimediali, non solo il video ma anche l'audio. O ad esempio, per fare un esempio relativo ai nostri siti, diventa molto difficile capire il contenuto di un sito fatto in tecnologia flash, quindi con delle animazioni, con dei movie, con dei filmati. Cioè tutto quello che è visuale è molto difficile da interpretare, la tecnologia fa molta fatica. Si sta cercando di risolvere il problema quando ad esempio pubblichiamo qualche video online a mano, cercando di associare delle parole chiave a questo video, tipicamente delle persone che sono presenti all'interno, gli argomenti trattati, per aiutare il motore. Il motore fa uno sforzo per iniziare a ragionare, per cercare di capire almeno i volti delle persone che sono presenti all'interno. Queste sono comunque sperimentazioni. Cercare di capire qualcosa di più da solo, ma effettivamente a livello tecnologico è molto difficile. Sì, forse una delle grandi sfide del futuro sarà quella di o trasformare i motori di ricerca attuali o creare dei nuovi motori di ricerca capaci di interpretare i video e anche gli audio. Sì, sicuramente. Adesso la soluzione prende in considerazione un diverso aspetto, che è la preferenza delle persone che hanno visualizzato quel video o quell'audio, perché il nostro problema lavorando con i motori di ricerca non è trovare tutte le fonti che parlano di un argomento, ma è trovare le migliori fonti che parlano di quell'argomento o comunque quelle che probabilmente hanno più valore, sono più di significato. Questo ranking che i motori forniscono è: ti do un elenco di cose che alla tua domanda rispondono meglio. Per cui un sistema per elencare questi video in ordine è quello dato dalla preferenza degli utenti, che fondamentalmente dichiarano sì mi piace, no non mi piace, gli danno un voto o contando il numero dei commenti. Per cui se abbiamo due video che trattano dello stesso argomento, ma uno è molto commentato e con dei valori positivi nei commenti, nel rating, nel voto che viene dato a questo video, molto probabilmente a parità di contenuto, anche senza sapere esattamente cosa ci può essere dentro, il motore di ricerca fornisce più in alto quello più commentato. Abbiamo detto che i motori di ricerca analizzano tutto il web. Allora, il web è una cosa immensa, grandissima, ci sono tantissimi miliardi di pagine e per fare questo i motori di ricerca hanno delle fabbriche, delle vere e proprie fabbriche che sono piene di grandi computer che lavorano 24 ore su 24 molto intensamente. tutto ciò costa un sacco di soldi, bisogna guadagnare un sacco di soldi per far funzionare tutto ciò, e i motori di ricerca funzionano e sono sostenuti dalla pubblicità, giusto? Sì. La pubblicità dei motori di ricerca quanto pesa nel contesto generale della pubblicità? Quando noi andiamo su un sito internet, il nostro impatto è vedere dei messaggi pubblicitari che sono i famosi banner. Però mi pare di capire che oramai il grosso del business si sta spostando verso il motore di ricerca. Sì, diciamo di sì. L'evoluzione è differenziata a seconda della maturità dei vari paesi. Per cui può succedere che in paesi più maturi, come può essere il Regno Unito, il peso dell'advertising, della pubblicità sui motori di ricerca sia più alto rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità online, le email e i banner, quelli che vengono chiamati in gergo tecnico il display advertising, quello sì, che tu vedi. Ovviamente. In mercati come quello italiano invece sicuramente le percentuali sono un po' più a favore di questa pubblicità che può essere definita tabellare, nel senso questa pubblicità visuale, perché è quella più semplice da proporre ai clienti, che comunque in un mercato come il nostro non sono così evoluti. Diciamo che a livello di volumi noi ci possiamo aspettare, guardando paesi che in questo momento stanno crescendo molto, di avere il motore di ricerca continuamente in crescita, perché in questo momento di crisi l'online è l'unico canale pubblicitario che sale, e all'interno dell'online i motori salgono molto di più degli altri strumenti pubblicitari. Ricollegandomi a quello che si diceva all'inizio, il motore è diventato essenziale per la navigazione, quindi chiunque deve fare i conti col motore, che sia Google o sia un altro. Cioè, la concorrenza è comunque importante, ma il concetto di motore di ricerca c'è anche dentro Facebook. Sì, quindi chi investe in pubblicità comunque un po' di soldi glieli mette nel motore di ricerca. Glieli deve mettere. Anzi, forse glieli mette sempre di più. Gliene deve mettere sempre di più, è sotto gli occhi di tutti. A proposito di Gran Bretagna, un dato interessante che ci dice anche un po' come si sta trasformando il nostro mercato. Quanto vale il business della pubblicità online confrontato con la TV, che viene spesso utilizzato come punto di riferimento? La domanda cade a puntino, perché la notizia scioccante, che ha un po' scioccato chi fa il lavoro dei pubblicitari online positivamente, è che nel Regno Unito per la prima volta nella storia il totale dei soldi investiti in pubblicità su internet ha superato i soldi complessivamente investiti nella pubblicità televisiva, che è una cosa che in Italia è lungi da venire. Sì. E, dobbiamo essere realisti. Per i problemi che abbiamo di dimensioni del mercato pubblicitario sulla TV, che sono un po' diverse e sproporzionate rispetto alla norma, diciamo così. Sì, siamo un po' conservatori, quindi tendiamo ad andare sul sicuro, se sempre pianificato in televisione, quindi è abbastanza naturale. Per trasformare in cifre questo tipo di discorso, il 25%, quindi circa un quarto dei soldi complessivamente investiti in pubblicità nel Regno Unito, sono finiti su internet. La cosa interessante è che un 60-62% di questi soldi sono finiti all'interno del canale cosiddetto search, quindi è il canale che aveva a che fare con i motori di ricerca. Quindi diciamo che è una crescita che va bene. È stata probabilmente questo sorpasso dovuto anche al fatto che in questo momento di crisi la televisione ha avuto una contrazione degli investimenti, come tutti gli altri mezzi. Però è un'indicazione interessante. Interessantissima, sì. Perché ha finalmente generato questa sorta di scandalo che farà parlare molto. Anche perché, questo è un altro messaggio che vorrei dare agli ascoltatori, i più giovani diciamo così, tutto questo movimento e tutta questa crescita poi si traduce anche in posti di lavoro, perché mi pare di capire che non solo Web Ranking, non solo la vostra società, ma un po' tutte le società che si occupano di questo settore cercano persone e vorrebbero assumere, ma non ne trovate. Esatto, è un paradosso. In questo anno di crisi intensa e anche planetaria, noi, come anche molti altri operatori del nostro settore, ci siamo trovati nella condizione di dover assumere qualcuno. Saremmo stati disponibili ad assumere, abbiamo assunto, ma avremmo assunto anche di più. Il problema è che nessun percorso universitario in questo momento forma persone che possono essere messe a lavorare subito in questo fantastico e patinato settore dell'advertising su internet, o comunque della comunicazione su internet. Quindi il primo messaggio è che noi ci stiamo comunque muovendo, tutte le aziende e anche le loro associazioni si muovono nel collaborare con le università per cercare di influenzare un po' i programmi di studio. Il mio primo consiglio è, se la tendenza italiana seguirà quella degli altri paesi un po' più evoluti rispetto al nostro, una carriera in questo settore, o almeno un'attività di studio in questo settore, o cercare di trasformare una passione per questo settore in una professione, è sicuramente un buon investimento. ...2024. Seguiteci tutte le settimane nel pomeriggio del sabato di Radio 24, andiamo in onda tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. Ci sono varie modalità per riascoltarci, quella che vi consigliamo sempre è il servizio podcast. Avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione in maniera automatica con software come ad esempio iTunes. Mettete l'indirizzo del nostro podcast e dopo di che fa tutto il software in maniera automatica. Quando trova un aggiornamento il sistema lo scarica. Ci sono molti ascoltatori che poi si fanno le compilation su CD oppure con le chiavette USB si riascoltano 2024 in automobile. Bentornati, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Prima di parlare di Windows 7 e anche brevemente di Linux, perché oggi è il Linux Day in Italia, concludiamo la chiacchierata che stiamo facendo sui motori di ricerca con Nereo Sciutto, che è presidente di Web Ranking, perché c'è un ultimo aspetto molto importante dei motori di ricerca, che di fatto sono aziende tecnologicamente molto avanzate che stanno diventando essenziali per la nostra vita di tutti i giorni, ma proprio per questo hanno anche, potremmo dire, una responsabilità sociale, non è così? È un punto fondamentale. Oggi chiunque, io ad esempio in questi casi faccio l'esempio della politica, Obama stesso per le sue elezioni ha usato in maniera molto forte internet e motori di ricerca, pianificava il grosso dei suoi budget durante la sfida con Hillary Clinton su internet apposta perché era interessato ad andare a dare una risposta a tutta questa audience che oggi, queste persone che oggi stanno su internet. Quindi direi che è diventato estremamente importante fare i conti con questa specie di mediatore che c'è tra la somma dei messaggi, delle informazioni, delle idee che circolano su internet oggi e la possibilità da parte delle persone che stanno anche cercando queste cose di trovarli. C'è qualcosa in mezzo, forse perché le idee sono tante e le voci sono tante, su internet c'è fin troppa roba, sono un sacco di cadaveri anche nel senso di cose messe lì, lasciate lì, però anche nei confronti delle informazioni recenti o utili c'è bisogno di qualcuno che faccia da mediatore, in questo momento è il motore di ricerca. E il paradosso è che noi chiediamo una sorta di libertà d'espressione ai nostri governi perché ci lasciano dire quello che vogliamo, e su internet non abbiamo delle realtà nazionali o internazionali che legiferino, abbiamo delle società private, motori di ricerca, che svolgono una funzione imprescindibile, fondamentale, la svolgono bene, però in questo momento abbiamo questo incontro tra domande e offerta, fra chi parla e chi ascolta, che è mediato da un soggetto che è privato e ha un modello di business. Quindi per quanto lavorino bene e noi siamo contenti del fatto che ci siano perché servono, è importante comunque tenere in considerazione il fatto che noi dobbiamo fare i conti con loro sempre, sia certo, che lo facciamo per svago che per lavoro. Quindi stiamo di fatto consegnando buona parte del dibattito ad un soggetto privato e soprattutto dei computer. Purtroppo sì, alla fine sono degli algoritmi, perché non sono vere le voci attraverso le quali qualcuno di tanto dice ma sono stato penalizzato, mi impediscono di essere trovato, perché in realtà sono algoritmi. Tendenzialmente era il discorso che facevamo prima, chi si occupa oggi, anche se ha una voce che normalmente nella vita reale sarebbe più bassa, di costruire un proprio sito, una propria pagina di comunicazione che sia più conforme ai gusti dei motori di ricerca di Google in primis, si fa sentire di più di tutti gli altri. Quindi è in questa guerra Davide contro Golia, e in cui la politica sta ancora facendo un po' fatica a capire come funziona quella di casa nostra, e la voce di tante persone su internet, anche il caso Beppe Grillo è una di queste, si fa sentire molto di più che nella vita reale, perché è più bravo a capire come funziona questo strumento e a farsi digerire dal motore di ricerca. Bene, io ringrazio Nereo Sciutto per essere stato con noi, anche per questi spunti che possono essere molto interessanti da approfondire in rete, magari facendo una ricerca su un motore di ricerca. Grazie, a presto. Grazie a voi. Adesso noi continuiamo, parliamo di sistemi operativi partendo da Linux, perché oggi Linux viene festeggiato in tutta Italia, il sistema open source diffuso in tutto il mondo, soprattutto a livello universitario, scientifico e aziendale. Oggi viene festeggiato per il Linux Day 2009. Sono state organizzate varie manifestazioni in 123 città italiane. Uno degli eventi più popolari è l'Install Party o l'Install Fest. Uno va con il proprio PC e gli esperti dei vari Linux User Group italiani lo aiutano ad installare il sistema operativo. In questo modo uno poi impara ad usarlo, le ultime versioni sono molto facili, ad installare poi le centinaia di programmi disponibili gratuitamente in rete. Linux, lo ricordiamo, è un sistema operativo inventato da Linus Torvalds nel 1991, un finlandese che ha deciso di mettere a disposizione della comunità il suo prodotto. Linux viene sviluppato da una comunità di sviluppatori in tutto il mondo, di programmatori in tutto il mondo, ed è disponibile in varie versioni chiamate distribuzioni. Alcune sono a pagamento, ma le più note e le più popolari sono gratuite, così come gratuiti sono molti software per scrivere, correggere fotografie, navigare in internet, eccetera, eccetera. C'è anche una famosa suite OpenOffice che può essere appunto utilizzata gratuitamente. La distribuzione di Linux più nota è Ubuntu, che è sicuramente una delle più facili da installare e utilizzare. Giovedì 29 ottobre, quindi tra pochi giorni, la prossima settimana, verrà rilasciata la versione 9.10 di Ubuntu. E a proposito di sistemi operativi, parliamo della nuova versione di Windows, la numero 7. Windows è per molti il programma che fa funzionare il computer, anche perché è installato, pensate, su 9 computer su 10 in tutto il mondo, più del 90% del mercato. Quasi tutti gli esperti del settore sono d'accordo nel ritenere un buon prodotto Windows 7, ma molti dicono che si tratta di Vista Corretto. C'è chi dice che il nuovo Windows 7 è una sorta di service pack di Vista, quindi un aggiornamento del sistema operativo che Microsoft ha lanciato 3 anni fa, ma che non ha avuto il successo sperato perché non ha mantenuto le promesse annunciate. Ora Microsoft ha corretto gli errori e da giovedì è iniziata la distribuzione di questo nuovo prodotto, che è installato sulla maggior parte dei nuovi PC che vengono venduti, oppure può essere acquistato a parte per aggiornare un vecchio sistema. Di Windows 7 abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Pietro Scott Iovane. Noi pensiamo che Windows 7 possa rappresentare una specie di anima o cuore di qualunque PC dai prossimi giorni in poi, e deve essere un'anima che ha 3 caratteristiche: sicurezza, velocità e direi un'attenzione alla semplicità. I PC che i nostri utenti hanno oggi fanno cose che fino a 5, 6, 7 anni fa non erano previste con così tanta attenzione, per esempio quello di navigare in rete, di condividere documenti o di avere disparpagliati all'interno della casa su diversi dispositivi tanti contenuti. Windows 7 fa questo, mette insieme tutto, mette a fattor comune tutto, crea in un istante una rete all'interno della casa per mettere insieme tutti i contenuti che sono sparpagliati fra i telefonini, i dischi fissi, la console, altri PC, e fa sì che questi dati siano tutti accessibili in maniera semplice, anzi possano essere trovati in un PC e spostati su un altro facendolo suonare da un'altra parte. Quindi hai un video dei tuoi figli su un PC e lo fai vedere sul televisore della casa senza spostare il file, ma semplicemente trasmettendolo. Analogamente, da un punto di vista di sicurezza, tutto quello che Windows Vista ha fatto, cioè di rendere evidente quanto deve essere sicuro l'esperienza in rete, perché tutto ciò che noi abbiamo sui nostri PC non vada altrove senza che ci sia l'autorizzazione, che era visto come un rallentamento da parte degli utenti, avviene analogamente in Windows 7, semplicemente in maniera invisibile all'utente, o almeno particolarmente meno visibile. Vuol dire che il PC studia l'utente nei primi 60 giorni e definisce esattamente qual è il suo profilo di rischio. Cosa fa? Va molto in rete, va poco in rete, condivide file, scarica applicazioni, le installa, le scarica ma non le installa. È tutto un modo che il PC osserva per capire qual è il profilo di rischio dell'utente. In funzione di questo definisce poi quali devono essere i veri alerts, quali sono i momenti di dire, guarda, i momenti con cui dice all'utente attenzione che tu stai correndo un rischio e devi sapere le implicazioni. Il terzo è quello della, se vogliamo, modalità d'uso. L'importante è che il PC sia, che funzioni bene, che funzioni velocemente. Windows 7 gioca una parte importante qui. Il nostro sistema operativo gira da un netbook da 299 euro a un grande PC multimediale che si può installare in casa, e funziona in una logica modulare. Fa sì che tutti questi dispositivi possano funzionare alla stessa velocità. 2024. Nella giornata del lancio del nuovo Windows 7, Microsoft ha anche aperto il primo Microsoft Store, il primo negozio con il logo a quattro colori della Microsoft a Scottsdale in Arizona. Con questo, che sarà il primo di una catena, Microsoft vorrebbe ripetere il successo degli Apple Store, dove l'azienda del Mac vende molti dei propri prodotti dall'iPod all'iPhone, all'iMac, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti in particolare l'arrivo di Windows 7 è stato accompagnato da una serie di eventi, da una massiccia campagna di comunicazione della Microsoft e da una, potremmo dire, controcampagna pubblicitaria della Apple, dove c'è stata una sorta di presa in giro di Windows. Spesso succedono questi battibecchi tra le aziende, in modo particolare tra la Apple e la Microsoft, ma non solo, insomma, tipico negli Stati Uniti è vedere delle pubblicità che criticano il concorrente. Questo è anche il bello del mercato e della competizione del mercato. Continuiamo a parlare con l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Pietro Scotti-Iovane, partendo da questi 3 anni di sviluppo per correggere tutto quello che è stato sbagliato in vista per proporre questo nuovo Windows 7. Abbiamo usato per sviluppare Windows 7, diciamo, 20.000 sviluppatori a Redmond, dove ha sede Microsoft, e 8 milioni di utenti nel mondo. Abbiamo fatto probabilmente un esperimento unico nel mondo, cioè di avere 8 milioni di alleati che hanno aiutato noi a fissare quali fossero le caratteristiche più importanti per un sistema operativo del futuro, quali fossero le caratteristiche principali per loro, quali fossero le semplificazioni attese e quali fossero, se vogliamo, le attenzioni ad alcuni altri aspetti che sono più tecnologici. Tutto questo l'hanno fatto perché ritengono di avere una competenza e una conoscenza tale perché questo possa essere d'aiuto. Questa è la grande differenza fra Windows 7 e Windows Vista. Noi siamo riusciti a costruire un sistema intorno alle esigenze degli utenti, introducendo nuove frontiere tecnologiche, come per esempio tutta la logica del touch, cioè la possibilità di interagire tra il uomo computer direttamente con le mani. È una nuova frontiera perché fa sparire l'esigenza di avere un'interfaccia che non è naturale, che è quella della tastiera e quella del mouse, e invece permette a un bambino di 6 anni, senza leggere un libretto di istruzione, a interagire facilmente con la macchina e vivendo appieno l'esperienza sicura di una connessione in rete. Se è vero che alcuni hanno rimandato l'acquisto di un nuovo computer continuando ad utilizzare XP, voi pensate e quali sono le vostre previsioni su una ripartenza del mercato dei PC, ma in generale del software? Ma diciamo, quello che sta succedendo in Italia non mi sembra particolarmente diverso rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Diciamo, il mercato dell'information technology ha subito un rallentamento unico per dimensione e per velocità. Abbiamo visto dei rallentamenti negli anni dello boom della bolla di internet e precedentemente ancora, però questo è stato di una proporzione superiore rispetto a quelle mai osservate. Il mondo del software ne risente come il resto del mercato, meno se vogliamo di altri aspetti. Se però guardiamo il mondo dell'hardware, quindi di quanti PC sono stati venduti nel mercato, la cosa interessante è osservare il fatto che le aziende hanno preso un break, hanno atteso a fare il refresh dei propri PC o introdurre nuovi PC in azienda, mentre il consumatore è cresciuto fortemente. Sono stati introdotti dei nuovi dispositivi, netbook per esempio, e quindi noi osserviamo che in questo momento un'offerta come quella di Windows 7 permette ad entrambi questi mondi, guardando avanti e aiutando il mercato a riprendersi, ad avere due buoni motivi per ritornare ad acquistare PC. Su Windows 7 per il mondo dei consumatori è perché gira dal netbook fino alla macchina più complessa. Per il mondo delle aziende è perché Windows 7 permette, attraverso la estrema attenzione che ha sui consumi energetici, sia perché ci impiega poco a partire, sia perché ci impiega poco a spegnersi, ma in particolare perché mentre è acceso continuamente regola tutto ciò che consuma energia per far sì che il complessivo footprint di carbon monoxide si riduca significativamente, fa sì che un'azienda che domani dovesse acquistare un hardware con su Windows 7, ottimizzando al meglio nel giro di 2 anni, ha ripagato tutto attraverso i minori consumi energetici. Vedremo dunque quale sarà la risposta del mercato. Microsoft si attende che sul miliardo di utenti Windows che ci sono in tutto il mondo, nei prossimi mesi circa il 20% passerà a questo nuovo sistema operativo, vuoi perché farà un aggiornamento dei vecchi computer, vuoi perché verrà acquistata una nuova macchina in sostituzione di una vecchia. Poi sarà molto interessante anche vedere il tasso di aggiornamento delle aziende, che per la maggior parte sono ferme a Windows XP, e quindi i prossimi mesi saranno sicuramente interessanti in un mercato dove c'è sicuramente maggior competizione rispetto a qualche anno fa, e un mercato dove non c'è solo come principale concorrente, anche se con una quota di mercato molto piccola del 5% in tutto il mondo, e faccio riferimento ad Apple, dicevo, in un mercato dove sta per arrivare anche Google con Chrome OS, che è un sistema operativo annunciato proprio per il mondo dei PC. Ma certo che Microsoft, con oltre il 90, quasi 95% del mercato, può permettersi anche una politica di prezzi che alcuni hanno criticato per Windows 7. Un nuovo sistema operativo che, tra le altre cose, forse questa è una delle caratteristiche più apprezzate, richiede poca energia ai computer, quindi anche computer poco carburati e poco potenti possono sfruttare queste novità, questo nuovo sistema operativo. Proprio di questo abbiamo parlato con Francesco Di Martire, che è un giornalista che da anni segue il mondo dell'informatica. Le impressioni sono decisamente positive. Dalla scorsa primavera ho partecipato, nel senso che ho avuto da Microsoft, insomma, sono entrato nel novero di quelli che hanno fatto il beta test, cioè la sperimentazione e l'uso, e ho potuto provarne e voluto provarne intanto sul mio vecchio computer. Era schiantato, ormai con Windows Vista non ce la faceva più. Bene, ho preso, fatto spazio, ho buttato via un po' di dati che servivano, perché per l'installazione della beta ci serviva parecchi giga di spazio, e ha funzionato divinamente, è tornato a vivere. Adesso continuo tranquillamente a dare ulteriore vita al mio vecchio PC, vecchio di 5 anni. E questo è sicuramente anche un beneficio per l'ambiente, anche se poi le politiche generali del mondo dell'industria informatica e dei PC cercano di farci sostituire macchine vecchie. Concludiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, torniamo la prossima settimana oppure ci trovate su internet www.radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.